24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. So anch'io che c'è tanta gente che preferisce un passerotto in mano piuttosto che il tacchino sul tetto. Ho impiegato un mese per capire la storia del passero, del tacchino, quella di Bersani. L'ha capita? Farò un master in bersanese. E allora ci siamo alle 6:34 minuti, cari ascoltatori, siamo qui in diretta fino alle 9, come sempre c'è la nostra Miriam Lucchetti in redazione, il nostro Alpino che ormai è tornato, si era insediato al suo posto, il nostro Peter Bescapelli in regia con i suoi tasti, i suoi cursori, pronto a farci compagnia anche lui fino alle 9. Monti. But please relax. Sono un po' stanco stamattina, così capita, capita. Apriamo subito il nostro bar, siamo pronti a fare i nostri caffè offerti come sempre da Nicole Minetti. Allora voglio salutare il nostro direttore di Vanity Fair, Luca Dini, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Eccoci buongiorno. Qua. L'abbiamo ritrovato, quindi vuol dire che Beppe Grillo non è venuto a prenderti e a corchiarvi di mazzate. Non ancora, ma non è detto. Saluto anche Paola Saluzzi, ben ritrovata, buongiorno. Ma lo difenderemo con un quadrato militare, il direttore Luca Dini. Sì, un quadrato in due, andiamo a posto. Facciamo un bel quadrato in due. E con Peter Bescapelli siamo quattro, facciamo quadrato militare. Va bene. Ragazzi, giusto. La matematica non è un'opinione. Buongiorno. Allora, la domanda è: avete visto Sanremo e Crozza, Luca Dini? Hai visto Crozza? Ovviamente. Paola Saluzzi, hai visto Crozza? Ovviamente. L'unico pirla sono io che non l'ho visto. Insomma, ero a combattere tra treni perché ero a Vicenza e tornavo tra treni, metropolitane di Milano rotte, come al solito. Insomma, e vabbè, l'esordio è stato devastante, questo l'ho sentito poi in registrata. Crozza. Come state? Siete bellissimi. Siete bellissimi. E parte siete la bellissimi. Contestazione subito. Bene, vedo che ho un po'. Niente, non gliel'ha fatta. A un certo punto sì, è dovuto intervenire anche Fabio Fazio. Amici, Sanremo è un momento. No, scusa. Maurizio. No, ragazzi. No, così non vale. No, non si offende nessuno. No. Ragazzi, siamo calmi e sereni e tranquilli. No. Bisogna stare anche tranquilli. Faccio in difficoltà. Stiamo applaudendo un comico dei più apprezzati e amati del pubblico televisivo. E dobbiamo divertirsi e poi dopo alla fine. Allora, cosa avete provato in quel momento, Luca Dini? Era l'intervento più atteso, quello di Crozza, siamo in campagna elettorale, era stato un po' caricato di attese anche, come dire. Ma sai che cosa, al di là di quella, diciamo, un po' ridicola, non ho trovato bella, però devo dire che l'intervento era stridente, mi ha procurato quasi un dolore fisico, cioè era volutamente stridente e in un certo senso gliel'ha un po' offerta su un piatto d'argento, devo dire. Sì, sì, c'è da dire che contestare, per carità, era talmente tutto prevedibile forse, no? Era stata caricata di così tanta attesa l'intervento di Maurizio Crozza a Sanremo, cioè poi in fondo doveva fare le sue solite imitazioni, le sue battute, la satira come sa fare in maniera straordinaria, ma poi com'è andata? Ha fatto ridere, perché mi hanno detto che poi alla fine è rimasto un po' quasi, no? Un po' quasi sotto da questa accoglienza un po' in attesa. Lui era visibilmente turbato da questa cosa, cioè, questo devo dire, si vedeva proprio, cioè, non è abituato a questo tipo di contestazione. No, certo. Insomma, ha lasciato un po' l'amaro a tutta la cosa che è venuta dopo, che era tipico Crozza. Sì, cioè. Esatto. Paola, tu l'hai visto anche tu? Ma era previsto, diciamo così, previsto che fosse quello l'intervento, forse prevista anche la contestazione. Cose, è uno bravissimo. Il teatro Ariston è grande, è un'altra cosa rispetto a qualsivoglia studio televisivo, a qualsivoglia altro tipo di programma. Peccato, concordo con il direttore, peccato, sì, perché poi è difficilissimo riuscire a, chiaramente, anche a concentrarsi e a continuare il proprio dopo che ti senti più o meno non benvenuto all'interno di una struttura, di una situazione così. Ma chi lo sa, se fosse entrato in silenzio. Non faccio l'autore dei comici. No, ma chi lo sa, ma poi chi se ne frega di Sanremo, no. Possiamo dire, no, come chi se ne frega, ma è uno, ma no, ecco. Ma no. Ecco, subito qua, io voglio subito fare il polemico, voglio fare il demagogo, il qualunquista. Allora, voi disgraziati di Vanity Fair avete messo Bianca Balti in copertina, è vero che si becca 800.000, no, 500.000 euro, ma ne avevo chiesti 800.000, Luca Dini, è vera questa cosa? Non lo so perché non abbiamo parlato di questo, come devo dire. Sono le solite leggi del mercato, brutte o belle. Ma quanto fa una serata? Quanto fa due serate? Quanto? Fa una serata. Una serata. Oh. Insomma, è una top, poi insomma uno può discutere sull'importanza o meno di avere una ragazza così sul palco. No, perché sulla bellezza non ne discutiamo. Sulla bellezza di Bianca Balti non ne discutiamo, ovviamente. Però almeno sa anche parlare, respirare e muoversi. Sono state pagate altrettanto dei manici di scopa. Eccola lì, e dove vuoi arrivare? Dove vuoi arrivare? Vai avanti, dove vuoi arrivare? Allora, è come strapagare un calciatore, visto che so con chi parlo, di quelli che si rompono subito, che uno dice, bravo, però costa tanto, ma è come il cristallo di Boemia, no? Sì, è come il vetro di Murano, si rompe se non stai attento in 5 secondi. Quantomeno se una persona operativa, non so ragionare sui prezzi e sui costi che possa avere un personaggio, però almeno è operativa e simpatica. Sì, ha detto prenderà pare. Brava Paola. Brava, prenderà è una cosa maschilista, perché insomma dai, ci sono dei giocatori che prendono molto di più per le partite che riescono a giocare ogni tanto. Forse ogni tanto. Ma maschilista, a proposito di maschilisti, poi dopo parliamo anche dei titoli di giornale, perché vi devo subito ammorbare con Finmeccanica, le inchieste, le robe, la politica, eccetera. Almeno iniziamo in maniera un po' più leggera. A proposito di maschilisti, allora vi voglio far riascoltare la celebre battuta di 2 giorni fa, perché qua abbiamo Paola Saluzzi, quindi una donna, abbiamo Luca Dini. Allora, la celebre battuta è quella del viene, quante volte viene, perché viene, non viene, viene, riviene, non si sa, si giri, si riguardi, si rimosse, si rimetta di qui, di là. Se la troviamo, non la troviamo. La battuta è quella lì, si sa. Eccola, sentiamola. Non ho capito molto bene, lei viene? Lei viene? Sì. Sì, ma scusi, una volta sola? No. Sono due gli impianti. Quante volte viene? 3, 4, 5, dipende dalle esigenze. Con che distanza temporale in una vita? Vabbè, allora adesso c'è anche il mistero, perché l'azienda, all'inizio questa signora Angela Bruno, attraverso l'azienda, ha fatto sapere di essere stata onorata e contenta di questa battuta. No, Berlusconi voleva solo fare il simpatico. Poi ha dato una smentita, ha detto no, l'azienda mi ha messo in bocca delle parole che non sono mie, in realtà io sono offesa, imbarazzata. Allora, come se ne esce? Paola Saluzzi. Ma la cosa più tragica, forse al di là della battuta, era la risata della gente. Non per fare i bacchettoni, ma insomma c'era un corale, allora diciamo così, da una parte c'era un corale spirito goliardico, un po' da caserma, ma va bene, per carità, ci sta anche che si scherzi su questo tema. Scherzano tutti, giocano tutti contenti, punto. Dall'altro era una piccola tragedia in onda. Dico piccola perché le tragedie sono altre e i problemi sono altri, chiaramente. Cioè di chi rideva, la colpa è di chi rideva, dici? Di chi rideva. Però anche forse anche la signora rideva in quel momento, cioè era, io non lo so, magari era presa dall'emozione, magari non se la sentiva di, però avesse reagito, invece questa è un po' l'accusa che viene fatta, è stata il gioco, ecco, diciamo. La battuta di una mia amica ieri sera, ma gli avesse tirato un ceffone in diretta, quelle cose avrebbero riaperto le liste e l'avrebbero subito inserita, sì, in vista delle prossime. Ingroia l'avrebbe candidata. Luca Dini, cosa doveva fare questa signora di 30 anni che adesso c'è, attorno alla quale c'è un giallo, insomma, non si capisce. Ma se no, si ti manca il giallo. Ma io sono orgogliosamente bacchettone, dico, sì, che la, dico che la signora in quel momento non aveva, diciamo, molta forza contrattuale, quindi non mi meraviglio che non abbia avuto né la prontezza né la capacità di reagire. Ho trovato brutto il teatrino successivo, la finta, diciamo, la finta, cioè, onestamente, chi crede che una donna possa essere onorata da quella cosa lì? Io non ci credo. Non ci credi? Effettivamente no. No, in quel momento però sembrava talmente presa nella parte, si rispondeva, insomma, dipende dalle volte, 2-3 volte abbiamo 3 impianti. Cioè, era pronta alla battuta, ma mi sembrava, come dire, stare bene in quel contesto, però forse, che ne so, poi dopo si è pentita, dopo tutta la bufera che si è creata, Ma sì. Forse in quel momento rispondi anche perché rispondi, perché ti viene naturale rispondere, insomma, ecco, esatto. Cioè, era vittima un po' di quella situazione in cui chiaramente non era la persona più visibile, non era la persona più avvezza a quei contesti, e quindi è stata tirata in mezzo, ecco, diciamola così. E comunque, insomma, c'è oggi la polemica sui giornali, altro che onorata, sono imbarazzata, l'azienda dice, avrà cambiato idea, ne trarremo le conseguenze. Che fanno ora? La licenzia? Non ho mica capito. Chi lo sa, il giallo legato a questa signora. Intanto noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi rientriamo con la nostra segreteria telefonica e qualcosa anche di politica. C'è la politica, c'è anche il Papa ancora che campeggia. Siamo diventati, dopo 60 milioni di commissari tecnici della nazionale, 60 milioni di vaticanisti in Italia. Tutti che sanno perché il Papa si è dimesso. 24 mattino. Se un bambino viene sbranato da un cane, ai politici non gliene può fregare di meno. Infatti il bambino non crescerà più e non voterà mai, mentre invece i proprietari di cani votano e sono coccolati e protetti dai politici. Guardate che a smacchiare il giaguaro non viene mica fuori il leone, ma viene fuori l'amico del giaguaro che nel gioco delle carte fa il furbo per fregare tutti. Monti è come il chirurgo che, dopo aver estirpato il tumore, viene accusato per aver tagliato il paziente. Milan, ti prego, fai un appello al Papa affinché ci spieghi le ragioni delle sue dimissioni. Non ce la faccio più a sentire tutti questi opinionisti, teologi, sacerdoti che si parlano addosso, gente che non conosce neanche se stesso e pretende di interpretare il pensiero divino. Basta, non ce la faccio più. Senza lavoro, senza governo e pure senza Papa. Qua ci vuole una consulenza esorcistica di gruppo. Ciao Alessandro, ma ci vuole una consulenza esorcistica di gruppo. E come sono arrabbiato. La legge dei professori nel 92 ha amato istituì l'ICE sulla prima casa. Il professore Monti me l'ha rimesso con l'IMU, in compenso mi ha tolto la pensione, l'aumento Istat sulla pensione del 3% come stanno, quindi 4 centesimi niente più, perché hanno diritto soltanto quelle che hanno 300.000 euro del reddito anno pari, stanno a 9.000 euro, e quella è la minima, se sono poveretto sono 400, quindi sono un cittadino ricco, grazie dottor Milan. Non ci ho capito niente in questi calcoli, ma insomma non ci ho capito niente, se non che questo povero pensionato praticamente gli hanno fregato dei soldi, questo l'ho capito secondo i suoi calcoli. Siamo con Paola Saluzzi e con Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Allora, avete sentito, ma tutti che sanno del Papa, ma il Papa, il Papa si è dimesso, e tutti che sanno, anche oggi su Vanity Fair, ecco, io segnalo questo, c'è una pagina straordinaria di Claudio Magris oggi sul Corriere della Sera sull'importanza e il senso di dire no in una società in cui tutti dicono di sì, in cui tutti vogliono prendere anziché lasciare, vogliono avere anziché dare, insomma, Claudio Magris poi è un filosofo, è un professore, no? A me basta questo, no? Luca Dini, non basterebbe questo, cioè tutti invece interrogarsi, oggi vedo anche voi, studenti FERF, mettete il coraggio di dire basta. Poi ci sono ovviamente tanti commenti, cioè, non basterebbe questo? Perché ci stiamo interrogando con paginate e paginate sul senso di quello che ha fatto il pontefice, Luca? Beh, perché siamo tutti un po' sotto shock di questa cosa. Devo dire che è vero quello che scrive Magris, nel senso che tragicamente oppure no, alla fine questo Papa verrà ricordato, io credo, alla fine soltanto proprio per aver detto no. Eh sì, è un po' impietosa, diciamo, come analisi, ma il dato di fatto è questo. Cioè, è chiaro che come teologo avrà fatto, come tutti i papi, tante cose, per chi... però il fatto è questo. Paola, questo verrà ricordato come il Papa che... Il Papa che non voleva diventare Papa, il Papa che è stato il più mite, il più anche, diciamo, maltrattato degli ultimi tempi per tante situazioni che si sono venute a determinare, il Papa che forse ha avuto più forza di altri nello scoprire vicende che come tali appena scoperte gli si sono rivoltate addosso, quindi ha avuto tanto coraggio dell'impopolarità questo Papa, fino al no, non ci sto più, punto. Non voglio dire il basta di Giannino perché sarebbe troppo, ma non ci sto più, stop. È un signore che se ne torna a pregare, lo dico da proprietaria, da innamorata di gatti, visto che ho una gattina dentro casa, se ne sarà con i suoi gatti, pregherà tutto il resto della sua vita e noi resteremo qui appesi a chiederci quanta forza si debba avere per dire no. Comunque grazie regia. tu l'hai chiamato, guarda, quando va qua basta che nomini Oscar Giannino e parte ovviamente questo. Allora io devo fare un appello prima di farvi sentire una cosa che ha detto Monti. L'appello è sempre al solito nostro contadino di Terni, per favore Angelino, vieni da noi in diretta. L'abbiamo spaventato, Paola, l'abbiamo spaventato, non vuole più intervenire, dice che lo prendono tutti in giro, è il contadino quello che evoca. No, sì. Un mito, è così, l'abbiamo chiamato, lui non ha il telefono perché chiamava dalla casa di un nipote. Beh, quando ha mandato i nostri messaggi, non ha il telefono, non ha neanche il telefono in casa, bisogna avvertire il vicino di casa per andare a chiamarlo. Andatelo a cercare. Adesso mando Miri a Lucchetti, parte e va. Se volete faccio io una spedizione alla Lumbria, è qui vicina, vabbè, ti sguinzaglieremo su Angelino, quello che ha evocato che cosa per i politici, la zappa prima. La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a Zappalucampo dalla mattina alla sera e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro. E poi una minestra scunnita. E poi, quando non bastava, dopo la zappa... Signore Milan, che potremo fare qui? Manco Santo Giuda, lo padrone delle cause perse, ci serve più. La zappa non basta più. La mazza da 10 kg e spacca la pietra sulla cava. Ecco, questo devono fare. Te saluto. Ecco, questo qua è un mito, è diventato già una leggenda per i nostri ascoltatori. Luca Dini, ma fate un'inchiesta, qualcuno voi che avete tutti gli inviati, sguinzaglia tutti gli inviati di Vanity Fair per trovarci Angelino e portarcelo qui in onda. Vi voglio far ascoltare Mario Monti. Sapete che c'è una persona, abbiamo parlato un poco di politica, che fa paura, ma paura matta di essere politici, Beppe Grillo. Sentite Monti che ha detto: Grillo, per una volta vada in una piazza greca anziché nelle piazze italiane, vedrà la disperazione, la protesta e vedrà anche piazze greche piene di neofascisti. Addirittura Luca Dini, tutti paura di Beppe Grillo, i neofascisti. Fa paura perché insomma i numeri sono notevoli e c'è anche la sensazione diffusa che possano essere anche sottostimati. Indubbiamente è il fenomeno di queste elezioni. No, ma assolutamente, c'è anche Berlusconi ieri contro Grillo. Paola Saluzzi, invita Grillo oggi pomeriggio. L'abbiamo invitato in tutte le salse. Ma in dai, tutti i modi, ma dai, ma dai, sarei stata l'unica ad invitarlo. Hai avuto un'idea geniale. Ora ve lo posso dire, questa ideona geniale che vi confesso alle 7:05 del mattino. Ma pensa un po'. Sì, siamo tutti in attesa che arrivi. In attesa che arrivi. Salterà prima o poi anche sul nostro filo d'erba. Ma chi lo sa, chi lo sa. Comunque tutti paura di Beppe Grillo. Chi lo sa, sarà lui la novità delle elezioni. Lo staremo a vedere. Intanto io vi devo salutare, vi devo ringraziare. Paolo Saluzzi. Buongiorno. Buona giornata. Vanity Fair oggi lo trovate con Bianca Balte. Insomma, al di là di 500.000, 800.000 euro. Devo dire, una copertina che merita di essere vista. Almeno da me. Sono cadute le penne appena nomino la copertina. No, è caduto veramente. È caduto tutto. Ci ritroviamo dopo il giornale delle 7. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:20 minuti, eccoci cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali per voi. Intanto vi ricordo gli ospiti che avremo alle 8:15. Avremo con noi Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC, e poi alle 8:30 parleremo di donne, il ruolo delle donne in politica, ma anche come sono viste le donne dai politici. Insomma, è una polemica che è riaffiorata nei giorni scorsi. Avremo con noi Lara Comi del Popolo della Libertà e Lidia Ravera, giornalista e scrittrice, e parleremo anche di quello che è ancora oggi sui giornali e con cui aprirò tra poco la rassegna stampa. Allora andiamo a vedere i titoli intanto e tutti i quotidiani in edicola. In questo mercoledì 13 febbraio, intanto appunto i titoli, i giornali scelgono due vicende, o la vicenda Finmeccanica o ancora il Papa in prima pagina. Per il Sole 24 Ore, Finmeccanica, arrestato Orsi, il giudice, tangenti come filosofia aziendale, il manager, atto devastante. Così Repubblica, Finmeccanica, vertici in manette. Anche il Messaggero ha lo stesso titolo del Sole, Finmeccanica, arrestato Orsi. Mentre l'Unità, Finmeccanica, trema la Lega, questo è il titolo. Il Giornale, Giustizia, Orologeria, Lombardia, i PM hanno votato, in questo caso però è la Procura di Milano che indaga Formigoni. Il Fatto Quotidiano, Finmeccanica, arrestato Orsi, Maroni trema, Monti nei guai. Il Secolo XIX, il filosofo della tangente, qui c'è la foto di Orsi. Il Papa invece, la scelta per il Corriere della Sera, tutte le insidie di un interregno. La Stampa, conclave a metà marzo, la scelta di Ratzinger contagia i cardinali. Avvenire, tutti stretti a Pietro, l'affetto dei giovani, vicinanza e preghiera. L'apertura invece di Libero, indagini e traditori per rubare il Nord, arrestato l'amministratore di Finmeccanica, accuse pesanti a Formigoni, dunque si accusa di giustizia a orologeria. Il Manifesto anche su Finmeccanica, il titolo è Arancia Finmeccanica. Voglio partire però, come detto, da un tema che poi approfondiremo alle 8:30, allora è giallo su questa vicenda della battuta, sapete, che due giorni fa ha fatto Silvio Berlusconi a questa signora giocando sui doppi sensi del viene non viene. Io offesa dal Cavaliere, l'azienda la minaccia, così titola l'Unità. Oppure sul Corriere della Sera, la venditrice imbarazzata dal Cavaliere. O sul Fatto Quotidiano, la Bruno, Angela Bruno, onorata da Berlusconi, no, imbarazzata. La Stampa, l'impiegata e quei doppi sensi, Berlusconi mi ha imbarazzata. Insomma, non si capisce bene quale sia la verità in questa vicenda. Il Corriere della Sera racconta, a pagina 23 con Paola Di Caro, partita come uno sketch è venuto male, la storia di Angela rischia di finire senza sorrisi, con qualche lacrima, tra feroci polemiche. Ogni giorno si aggiungono nuovi capitoli di questa donna apostrofata da Berlusconi a Milano in diretta TV. Lei viene, quante volte viene, si giri, si può fare, eccetera, che è diventato un brutto e triste tormentone della campagna elettorale. Perché il giallo, perché dopo le parole "sono onorata di aver incontrato Berlusconi", ecco che Angela Bruno si fa viva con un giornalista di Corriere.it a dire: questa è la prima volta che parlo, lo faccio con, ha fatto una breve dichiarazione via mail, e ha detto: sono allibita da ciò che leggo sui giornali, finora non ho avuto modo di difendermi, a seguito rilascio la mia prima dichiarazione in qualità di donna e di madre, le battute del cavaliere non mi hanno affatto onorato ma solo imbarazzato, la notizia dove mi dichiaro onorata è falsa, questa è la prima dichiarazione che rilascio, sono vittima di una manipolazione mediatica, molte grazie. E da qui insomma il giallo, l'azienda dice avrà fatto marcia indietro, avrà cambiato idea, ne trarremo le conseguenze. L'Unità si chiede che vuol dire questo ne trarremo le conseguenze, visto che uno dei titolari dell'azienda è anche candidato con Silvio Berlusconi e il Popolo della Libertà in Veneto, che vuol dire la minaccia di licenziamento. L'avvocato però non risponde all'Unità. Insomma, il giallo da due giorni uno dei temi della campagna elettorale è questo. Vabbè, tra l'altro oggi credo l'anniversario di quell'iniziativa "Se non ora quando", che molte donne hanno fondato qualche anno fa, e quindi ne parleremo alle 8:30, insomma le donne e la politica. Voglio dare due notizie di cronaca che trovate, una sul Corriere della Sera e riguarda uno sviluppo abbastanza clamoroso, se confermato, sulla vicenda della scomparsa dell'aereo che da Los Roques portava a Caracas Vittorio Missoni Junior e i suoi e altri amici italiani, in tutto quattro italiani, perché, scrive il Corriere della Sera, è stato ritrovato lo zaino di Vittorio Missoni. All'isola di Bonaire, nelle Antille olandesi, sull'etichetta c'è il nome dell'imprenditore, racconta Alberto Berticelli a pagina 30 del Corriere. La prima traccia era stata un borsone da kitesurf trovato sull'isola di Curaçao. Tre giorni fa un secondo inquietante indizio sulla costa sudorientale dell'isola di Bonaire, nelle Antille olandesi, tra Los Roques e Curaçao, un giornalista locale ha trovato uno zaino con attaccata l'etichetta Vittorio Missoni. La prova forse che l'erede della famosa Maison di Moda, assieme alla compagna Maurizia Castiglioni, agli amici Elda Scalvenzi e Guido Foresti, si è inabissato sul piccolo aereo che da Los Roques lo stava trasportando a Caracas il 4 gennaio scorso. Ovviamente ora sono scattate le indagini approfondite, ma con ogni probabilità, a questo punto scrive il Corriere, l'aereo non si è inabissato nel punto indicato da un radar militare che vede i velivoli solo sino a 1500 metri d'altezza, deve aver fatto altra strada prima di scomparire, questo studiando anche un po' le correnti. In ogni caso la notizia viene data dal Corriere della Sera. Un'altra notizia di cronaca che trovate a pagina 24 della Stampa, firma Pierangelo Sapegno, beh, è una storia un pochino triste che riguarda quel cane. Ricordate quel cane che dal giorno dei funerali della padrona a Brindisi si presentava tutti i giorni in chiesa e stava lì sull'altare. Da quando è scomparsa la sua padrona, lui tornava lì, Tommy. E lo lasciavano, l'hanno talmente adottato che lo lasciavano lì in chiesa, ai piedi dell'altare. Ebbene, la notizia è che ieri il cane è morto di crepacuore. Muore di crepacuore il cane pastore che aspettava la padrona in chiesa. Pierangelo Sapegno scrive: se si dice una vita da cani, un motivo ci sarà, ma il pastore meticcio, Tommy, sembrava una persona quando andava con le sue orecchie basse sotto l'altare vicino a Don Donato Panna che celebrava la messa, allungando il muso come in preghiera nella speranza di veder tornare la padrona che lì lo portava tutte le domeniche prima di morire, facendolo aspettare sul sagrato davanti al portone. Forse ci sono soltanto delle vite che sono uguali, perché ci sono delle anime nelle nostre vite. Il cane Tommy è morto ieri di crepacuore, come annunciato su Facebook. Tommy era diverso, non lasciava mai la padrona, durante il giorno l'accompagnava a fare la spesa, lei gli aveva insegnato a star fuori dai negozi, a salutare le persone alzando la zampa, faceva così anche la domenica quando Maria andava a messa, si metteva sul sagrato a testa alta aspettando la fine della messa, salutando tutti quelli che uscivano con lei alla fine. Il giorno dei funerali però non aveva fatto così, quella volta aveva varcato la soglia, aveva attraversato la navata in mezzo ai fedeli, come se volesse star vicino a Maria anche adesso che non c'era più, come se volesse restarle accanto. E forse Tommy piangeva solo chi gli aveva sempre dato da mangiare, forse siamo noi che ce le inventiamo queste cose, però dopo quel giorno tutto il paese di 7.000 abitanti aveva adottato il cane pastore che tornava in chiesa a pregare, gli davano il cibo, gli avevano trovato un tetto. Come ha raccontato il sindaco, che aveva pensato anche di adottarlo, capendo subito che era inutile, e dichiarando gli avrei solo fatto del male, gli avrei dato meno di quel che gli davano tutti. E allora c'è dell'altro, e ci sono sentimenti che nascono, ci sono dolori e amori che appartengono alla natura del mondo, e se è vero che molti di noi magari non ce l'hanno un'anima, ci devono essere degli animali che ce l'hanno, perché questa è la vita e il suo mistero, anche una vita da cani. Beh, questo è il bel pezzo che trovate sulla stampa di Pierangelo Sapegno, che tra l'altro è una penna sopraffina, a pagina 24 della stampa, su questa vicenda del cane Tommy, che da ieri non c'è più. 24 mattino. E allora alle 7.34 minuti il caso Finmeccanica è uno dei casi che trovate più affrontati dai giornali, vale a dire l'arresto ieri del presidente e amministratore delegato di Finmeccanica Giuseppe Orsi e di altri vertici, l'accusa di corruzione per la vendita degli elicotteri in India, di avere intascato una tangente che viene definita negli atti della procura che hanno chiesto l'arresto di Orsi, una filosofia aziendale. Tangenti Finmeccanica, arrestato Orsi, Stefano Elli racconta la cronaca sul Sole 24 Ore, pagina 3, l'accusa dei PM è proprio corruzione per la vendita degli elicotteri in India. Giuseppe Orsi e Bruno Spagnolini, amministratore delegato e presidente di Finmeccanica e CEO di Augusta Westland, sono da ieri agli arresti. Il primo è stato tradotto nel carcere di Busto Arsizio, il secondo è rimasto ai domiciliari, mandati d'arresto anche per i due broker svizzeri Guido Ralf Asch e Carlo Gerosa, utilizzati dalle due società per intermediare quelle che i PM Fusco adesso e il GIP La Bianca ritengono essere state commesse dopate da tangenti versate anche all'estero. Si tratta di 51 milioni di euro, come racconta Marco Ludovico sempre a pagina 3, 51 milioni di euro che sarebbero una provvigione di 41 salita a 51, somma che poi doveva in parte ritornare al mittente. Questa almeno è l'accusa dell'ex direttore delle relazioni istituzionali della holding Lorenzo Borgogni, messo alla porta da Orsi, che ha consumato così la sua vendetta ed è stato tra i testimoni. Tra l'altro Repubblica racconta con Carlo Bonini una sorta di colloquio, quel colloquio avvenuto un mese fa con Orsi, quel colloquio prima di finire in carcere, lo trovate a pagina 3, perché non viene a prendersi un caffè? Così inizia la mattina dell'11 gennaio, un mese prima che il GIP di Busto Arsizio, La Bianca, gli aprisse le porte del carcere, questo colloquio tra Giuseppe Orsi e Carlo Bonini di Repubblica. Con un Orsi, scrive Bonini, che era convinto evidentemente di essere passato attraverso la cruna del lago. Le chiederei di tenere questa chiacchierata tra noi, ma mi fa piacere che lei sappia alcune cose del sottoscritto, così esordì Orsi. La prima, io sono un uomo onesto, figlio di una famiglia onesta. La seconda, sono un uomo di fabbrica. La terza, io non corrompo per vendere, piuttosto rinuncio a vendere. La quarta, io nella mia vita non ho chiesto mai nulla, tantomeno di essere seduto su questa sedia. Mi hanno chiamato e ancora adesso Roma, i palazzi della politica, le banche sono qualcosa che fatico a maneggiare. Si figuri, in vita mia sarò stato in tutto due volte a Palazzo Chigi, ho incontrato Tremonti in una sola occasione e non frequento il Ministero dell'Economia. In questa chiacchierata si parlò anche dei rapporti con la Lega. Mandiamo, la risposta di Orsi. Pensi che un giorno qui incontro Calderoli in ascensore e lui manco mi riconosce, per non parlare di Bossi, che non so neppure che faccia abbia. Solo Maroni l'ho conosciuto bene dai tempi in cui era ministro dell'interno e lo stimo. In questa chiacchierata, dice Bonini, sulla vicenda invece dell'India e dell'affare e degli elicotteri venduti in India, aveva preferito pattinare. Questa è il verbo che utilizza Carlo Bonini, riproponendo un canovaccio che oggi appare per quello che è. Asche, cioè questo mediatore, l'ho conosciuto pochissimo, me lo presentò Zappa e sull'uomo preferirei non dire. Mettiamola così, ha fatto il suo lavoro. Insomma, questo colloquio viene pubblicato ora. Certo, i rapporti tra Orsi e la politica. Maroni si è subito affrettato a dire la Lega non c'entra nulla e ha minacciato querele per chiunque voglia fare un coinvolgimento della Lega nella vicenda, come già un anno fa chi faceva queste insinuazioni ne risponderà in sede civile e penale, perché la Lega non c'entra nulla. Il Fatto Quotidiano pubblica a pagina 3 tutto lo sbobinato di una intercettazione dell'inchiesta, un'intera pagina. Maroni disse: sei l'uomo migliore per questo ruolo. Da questa telefonata sicuramente si evince che i due si conoscono bene, si danno del tu, Giuseppe Orsi e Roberto Maroni. Si parla della nomina, con Maroni che fa i complimenti a Orsi, lo ringrazia per quanto fatto per lui. Alla fine nella telefonata c'è anche l'offerta di Giuseppe Orsi di mettere a disposizione a Maroni la casa a Corvara per il Natale, con Maroni che risponde: ti ringrazio ma credo di non riuscire ad andare a una cosa che devo andare a fare a Bergamo per la Lega. Le intercettazioni tra il segretario del Carroccio e l'amministratore delegato dell'azienda, la riconoscenza per quanto fatto dall'ex ministro dell'interno, l'invito del dirigente a passare nella casa in montagna le feste del 2011. Questo praticamente è il sunto di tutta l'intervista, di tutta l'intercettazione che viene pubblicata a pagina 3. A proposito di intercettazioni, finisce anche il Sole 24 Ore nelle intercettazioni, perché si parla di pressioni fatte in queste telefonate da parte dell'amministratore delegato di Finmeccanica per alcuni articoli sgraditi, con una telefonata al presidente di Confindustria Squinzi. Oggi a questo proposito il Sole 24 Ore con Roberto Napoletano, cioè il direttore, fa una nota a pagina 3: il compito di un giornale, il primato della notizia, scrive Napoletano, il compito di un giornale è scavare, denunciare, superando ogni delicatezza, rispettando sempre il primato della notizia. Abbiamo infastidito il presidente di Finmeccanica, Orsi, oggi agli arresti. Altrettanto avevamo infastidito, per la verità, il suo predecessore, Guarguaglini. Voglio ribadire ai lettori, lo abbiamo fatto con i nostri giornalisti migliori, perché questo è il nostro dovere, perché i comportamenti dei singoli, i fatti lo richiedevano. Il Sole 24 Ore, il giornale dell'economia, di tutta l'economia, non di una parte, come ripeto spesso, e proprio per questo si fa carico di affiancare sempre all'inchiesta giornalistica l'analisi economica, il dibattito delle idee dei protagonisti, la questione industriale e il valore imprescindibile del suo patrimonio tecnologico. E c'è anche sempre a pagina 3 una nota del comitato di redazione, vale a dire la rappresentanza sindacale del Sole, che scrive: il comitato di redazione, in relazione alle intercettazioni telefoniche tra il presidente e amministratore delegato di Finmeccanica Orsi e il presidente di Confindustria Squinzi, da cui emergono il risentimento di Orsi per gli articoli del Sole, sottolinea che proprio in questi atti giudiziari risalta con chiarezza l'indipendenza della redazione e la qualità dei servizi pubblicati, e neppure dopo le telefonate è mai arrivata fino alla redazione alcuna interferenza volta a condizionare il lavoro sull'inchiesta a carico dei vertici di Finmeccanica. Insomma, intanto la situazione è che il titolo in borsa è crollato del 7,3%, è una ragnatela che, secondo il Corriere, con l'articolo di Fiorenza Sarzanini a pagina 15, tira in ballo, come si legge l'articolo, dalla Lega alla magistratura, la ragnatela del presidente Orsi. Si legge, infatti, scrive Sarzanini nella ordinanza di custodia cautelare in carcere, il commento del giudice: le circostanze non possono essere sottaciute. Sull'utenza di Orsi sono state intercettate diverse telefonate con esponenti politici della Lega, di quel partito che, a prescindere dalla corrispondenza al vero dell'illazione fatta da Zampini, una delle persone sentite nell'inchiesta, dimostra una certa vicinanza di Orsi a quel partito e confermano, ove ce ne fosse bisogno, la credibilità di Asce, cioè una delle persone che è stata poi arrestata in Svizzera. È giustizia a orologeria? Per qualcuno sì. Il giornale Libero titolano, per la verità mettono insieme sia Finmeccanica sia l'inchiesta anche che tira in ballo Roberto Formigoni. Il giornale titola: Lombardia, i PM hanno votato. E così anche Libero. Sta di fatto che questa vicenda rischia davvero di avvelenare ancora di più la campagna elettorale, come se non ce ne fosse già abbastanza per avvelenarla. A proposito di campagna elettorale, a proposito di politica, poi torniamo sulle vicende giudiziarie che ho accennato, anche quella che riguarda Formigoni. Berlusconi e Monti all'attacco di Grillo. Beh, la giornata della campagna politica di ieri ha fatto registrare questo attacco abbastanza da più parti, no? Nei confronti di Beppe Grillo e del Movimento 5 Stelle, segno raccolto dai giornali che evidentemente c'è il timore davvero che Beppe Grillo possa fare il botto dal punto di vista elettorale. Berlusconi e Monti uniti contro il pericolo Grillo, titola per esempio pagina 20 il Corriere della Sera con Alessandro Trocino, racconta come Monti abbia detto, e l'abbiamo fatto sentire anche alle 6.30, che Beppe Grillo vada in Grecia e vedrà che questo populismo porta anche alla nascita di nuovi fenomeni neofascisti. È un populismo dannoso, insomma, quello di Grillo, dice Monti. La replica di Beppe Grillo è: si tolga dai piedi, dice che voglio ridurre l'Italia come la Grecia. Cosa dice? Sono quelli come te che hanno portato la Grecia al disastro. Monti si tolga dai piedi, porti il suo cagnolino al parco, ha già fatto abbastanza danni. Questa è la replica di Beppe Grillo, che è stato attaccato anche da Berlusconi. Insomma, Berlusconi che dice anche: Grillo poi farà l'accordo col PD, il PD si comprerà i grillini. Questo è il titolo per esempio di pagina 14 di Libero. Insomma, schermaglie da campagna elettorale. Ma certo, è davvero un giorno in cui le inchieste giudiziarie trionfano almeno sui giornali. Dopo Finmeccanica c'è anche la vicenda che riguarda Roberto Formigoni, c'è la vicenda che riguarda l'ex ministro Fitto, candidato del Popolo della Libertà, che è stato condannato per tangenti a 4 anni. Non è una condanna definitiva ed è stato anche interdetto dai pubblici uffici per 5 anni, eppure è ricandidato. C'è la vicenda sempre giudiziaria che riguarda l'ex capo dei servizi segreti Pollari italiani, che è stato condannato per 10 anni per il rapimento di Abu Omar. Insomma, cronache giudiziarie a go go dopo il traffico. E allora Formigoni a capo del sistema Maugeri, così titola La Stampa. Cerchiamo di capire qualcosa di più nell'articolo di Paolo Colonnello di Giudiziaria, ma comunque trovate interviste e trovate articoli dappertutto, anche un'intervista di Formigoni a Repubblica. Scrive Paolo Colonnello sulla Stampa: non solo corrotto ma anche promotore e organizzatore dell'associazione per delinquere che per anni, a partire dal 97, avrebbe garantito alla fondazione Maugeri di Pavia provvedimenti diretti a erogare consistenti somme di denaro e procurare altri indebiti vantaggi economici alla fondazione. Questo l'atto d'accusa pesantissimo per il presidente dimissionario della Regione Lombardia Formigoni nell'avviso di conclusione indagine notificato ieri ai difensori degli indagati dell'inchiesta Maugeri. Sono 36 pagine fitte di nomi, cifre, circostanze con le quali la procura mette la parola fine all'istruttore sul sistema di potere e corruzione che avrebbe visto al vertice proprio il celeste, così è soprannominato Formigoni, impegnato a garantire una protezione globale alle cliniche di Pavia e non solo. In cambio Formigoni, secondo i PM milanesi, avrebbe ricevuto utilità per almeno 8 milioni di euro. Utilità, potete immaginare cosa significhi. Comunque sono viaggi, vacanze, uso di yacht, finanziamenti per la campagna elettorale, villa in Sardegna. Queste sarebbero le utilità di cui avrebbe usufruito Formigoni. Anche per Repubblica, 8 milioni a Formigoni in viaggi, barche, contanti e associazione a delinquere. Formigoni, per la verità, si difende proprio in un'intervista a Repubblica ad Andrea Montanari, la trovate a pagina 7. Intanto inizia con un po' di ironia: francamente sono soddisfatto, mi aspettavo mi accusassero di omicidio e di strage, invece vedo che queste accuse non mi vengono fatte. Sta dicendo che si tratta di giustizia a orologeria? Beh, certo, la tempistica stupisce. Cosa non si fa per nascondere lo scandalo Montepaschi-Siena? A distanza di 24 ore si lancia un'accusa contro il presidente dell'ENI Scaroni, si mette in carcere il presidente di Finmeccanica Orsi, si continua con la distruzione dell'ILVA, adesso si attacca Formigoni. Mi sembra che le cose siano chiarissime. E il titolo dell'intervista è questa: vogliono coprire il caso Montepaschi, impedire la vittoria del Popolo della Libertà. Questa è la visione di Formigoni, intervistato da Repubblica. E poi dicevamo, c'è la vicenda anche di Fitto, l'ex ministro Fitto, che è stato condannato anche lui per tangenti ed è stato interdetto tra l'altro dai pubblici uffici per 5 anni. Questa è la condanna nei confronti di Fitto che trovate raccontata su Repubblica a pagina 6. E tra l'altro ovviamente Repubblica si chiede che sarà ora di Fitto, perché è stato ricandidato dal Popolo della Libertà. Se volete fare una cultura di giudiziaria, oggi ce n'è davvero aiosa. Come ho detto, c'è anche la notizia della condanna di 10 anni a Nicolò Pollari, ex capo del SISMI in Italia. Lui dice: io innocente come Enzo Tortora, è stato condannato per il sequestro dell'imam Abu Omar in Italia, a Milano, portato poi dagli americani in vari paesi del mondo per essere poi torturato, perché è accusato di essere vicino all'islamismo radicale. Per questo Pollari, che fa 2 interviste al Messaggero, dice: io ero contrario, mi opposi, ci sono le prove di questa cosa, ma non le considerano. Al Giornale dice anche: sono stato intervistato da Gianni Calessin, sono stato non difeso dallo Stato, il governo non mi ha difeso, la mia estraneità è agli atti, Berlusconi avrebbe testimoniato a mio favore, non ho paura del carcere. E poi dice, ecco questa frase: io sono come Enzo Tortora, innocente come Enzo Tortora. Trovate anche molte pagine sul Papa su questa notizia, insomma, che ha davvero terremotato non solo il mondo della Chiesa ma il mondo in generale. E allora vi segnalo, tra i tantissimi articoli che potrete trovare, una straordinaria pagina e riflessione di Claudio Magris sul Corriere della Sera, la trovate a pagina 13. Quando il no serve ad affermare la libertà e la dignità della persona. Il professor Magris racconta nell'inizio di questo suo articolo: è più facile prendere che lasciare, dire di sì che dire di no. Quasi tutto ci spinge quasi sempre a dire di sì dinanzi a ciò che ci viene offerto, la condizione in cui ci troviamo, la paura di offendere, di far restar male qualcuno, il timore di rimanere fuori gioco, lo sgomento davanti ai cambiamenti della vita, antichi e radicati imperativi morali, spesso sacrosanti, che impongono il dovere di agire, combattere, restare al proprio posto, come i capitani di Conrad al comando di una nave in gran tempesta. È dunque comprensibile che il grande e fermo no, detto da Benedetto XVI, abbia sconcertato tante persone, fedeli e no, prese alla sprovvista da una rinuncia alla più alta carica e responsabilità del mondo. È comprensibile che ci sia chi ammiri, chi deplori la risoluta decisione del Papa, anche se il legittimo sentimento di consenso, smarrimento, non autorizza nessuno a ergersi comodamente e arrogantemente a giudice di quella drammatica risoluzione, sofferta ma portata con straordinaria fermezza, una fermezza che forse mai prima questo pontefice problematico e talora esitante aveva dimostrato con altrettanta intensità. È più facile in generale dire di sì esplicitamente dinanzi a una nuova richiesta, implicitamente restando nella condizione in cui ci si trova, ma è soprattutto con il no che si affermano la libertà e la dignità di un individuo. Rifiutare, dunque mutare ciò che appare immutabile, sfatare la pretesa di ogni situazione consolidata che si crede salda e indiscutibile, non bruciare l'incenso agli idoli talora mascherati da dei. Il gesto di Joseph Ratzinger è certo un gesto rivoluzionario che stravolge le regole, le consuetudini, le aspettative felpate e prudentissime della curia romana, cautele circospette radicate nei secoli, divenute talora DNA, spesso stampate nei lineamenti, nelle facce ineffabili di molti suoi alti e interscambiabili esponenti. E poi continua l'articolo di Magris, davvero una riflessione all'altezza dell'intelletto di questo professore italiano. La trovate sul Corriere a pagina 13. Se volete, c'è anche un po' del colore legato al Papa. Scrive il Messaggero: l'anello petrino, il sigillo, verrà spezzato probabilmente dopo il 28 febbraio. E poi i giuristi si stanno interrogando: ma il Papa ha diritto a un vitalizio oppure no? E questa è una delle cose sui quali i giuristi si stanno interrogando. '24 mattino. L'Italia si desta. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci, sono le 8:15 e con noi per parlare di attualità politica c'è il leader dell'UDC, Pier Ferdinando Casini. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Casini. Senta, ieri, visto che voi siete alleati insieme a Fini e a Monti, Monti ha fatto una timida, per la verità, apertura a Vendola su una possibile anche collaborazione dopo il voto. Lei la vede possibile? Ma non l'ho sentita io in questa apertura, no? Che cosa avrebbe detto? Beh, ha detto se Vendola cambia, insomma, si può... Ah beh, certo, se Vendola non è più contro la TAV, se Vendola è per le liberalizzazioni, se Vendola è per la riforma delle pensioni e per l'articolo 18, noi problemi personali verso Vendola non ce li abbiamo. È lui che ha posto queste questioni come macigno sulla strada di una... qualsiasi ipotesi di alleanze, poiché io di solito le persone le prendo sul serio e ritengo che Vendola non parli a vanvera, il giorno che pone queste questioni e impedisce qualsiasi tipo di rapporto e di alleanza con una forza come la nostra che è imperniata proprio sulle riforme. No, perché sa, dopo il voto e tutti parlano di una possibile incertezza nella governabilità, soprattutto al Senato, allora una delle ipotesi era un accordo post-elettorale tra la formazione vostra e il Partito Democratico, dove c'è anche però Sell. Ma guardi, noi non è che ci ha ordinato il medico di fare l'accordo con la sinistra, né siamo destinati ad essere la stampella di qualcuno. Noi stiamo facendo un'operazione molto seria, che è quella di mettere assieme società civile e politica che ha sostenuto Monti. Abbiamo l'idea che a questo paese serva procedere sulla strada delle riforme senza esitazione. Non vogliamo che venga messo tra parentesi il lavoro di questo anno del governo. Prendiamo atto che Vendola questo governo lo considera negativo e negletto per l'Italia, per cui uno più uno fa due. Diciamo che il centrosinistra ha costruito tutto, ha costruito la grande ipotesi di governo nella grande ipotesi di governo ci sono come parte integrante le idee di Vendola, il problema è loro, non è nostro. Lei esclude che tra 6 mesi si debba tornare a votare? Io spero che non si debba tornare a votare, che è una cosa diversa da escludere di non tornare a votare. Però, spero che non si debba tornare a votare. Spera, perché è davvero questa ingovernabilità. Spero perché sarebbe una cosa molto negativa, spero perché sarebbe una cosa destinata ad allargare ancora più il fossato tra la politica e la società civile, per cui è chiaro che qualsiasi persona intelligente spera che non si debba tornare alle urne. Chi è in grado di escluderlo drasticamente lo invidio, io non sono in grado di escluderlo drasticamente. Senta, ieri invece c'è stato un attacco abbastanza concentrico nei confronti di Grillo, sia Monti l'ha attaccato, sia Berlusconi l'ha attaccato. Temete la forza elettorale di Beppe Grillo? Sinceramente, le dico la mia idea, per me il problema di Grillo siamo noi, cioè non è che noi possiamo prendercela con Grillo, Grillo è il termometro dell'antipolitica che cresce nel paese, non è la causa, cioè è come se io mi provo la febbre, c'ho 39, non è che me la prendo col termometro, nessuno pensa che Grillo possa risolvere i problemi dell'Italia, non credo che nessuno di coloro che votano Grillo sperano di votare Grillo per l'assistenza sanitaria, per il fisco, perché le piccole e medie imprese hanno troppa burocrazia. Votano Grillo perché lo voterebbero? Come protesta. È solo una contro protesta. La politica, per cui non è poco, è il termometro di una insoddisfazione che c'è e di un fossato che c'è tra il paese e la politica. Beh, ma quindi secondo lei manca la costruzione, diciamo, secondo lei, nel progetto. Manca la politica. Abbiamo passato 3 anni a spiegare che bisognava fare la legge per restituire ai cittadini la possibilità di scegliere i propri parlamentari, poi alternativamente un po' il PD, un po' il PDL, sulla base di presunti vantaggi che ne sarebbero derivati, hanno sostanzialmente lavorato per tenere questa stessa legge. Poi magari si lamentano perché al Senato non sarà semplice avere una maggioranza, eccetera, però io mi lamenterei anche del resto, cioè mi lamenterei del fatto che una coalizione che ha il 35% rischierà di eleggere il 55% dei parlamentari, per cui nella coalizione di Bersani probabilmente un parlamentare si fa con poco più della metà dei voti di quanto serva per gli altri parlamentari. Sono cose che non stanno né in cielo né in terra, ma quando per mesi si dice cambiamo la legge elettorale, la priorità, poi non la si cambia, non ci lamentiamo se Grillo cresce. Senta, a proposito di programmi, parliamo un po' di questo. Lei ha detto che uno dei primi punti per voi è la riduzione del cuneo fiscale, però lo si dice un po' sempre in campagna elettorale, ma come? Riducendo le tasse? Scusi, non ho proprio sentito. La riduzione del cuneo fiscale, dice uno dei punti del Luigi. No, glielo dico subito. Ma come si fa? Perché sembra una promessa, ovviamente, che poi uno deve mantenere. No, noi non facciamo promesse e vogliamo essere ricordati in questa campagna elettorale per quelli che non fanno promesse. Le promesse le fanno gli altri, se la gente ci crede, voti per Berlusconi e per chi fa promesse. Noi riteniamo che la pressione fiscale sia molto alta in Italia e bisogna fare di tutto per alleggerirla progressivamente. Come? Prima di tutto non parlando di condoni, perché questo significa una cosa dannosissima per la lotta all'evasione fiscale, che è presupposto per l'alleggerimento di ogni pressione fiscale. Secondo, continuando a tagliare la spesa pubblica in modo selettivo. Ricordo che io, l'UDC, è l'unico partito che ha proposto il taglio delle province e votato il taglio delle province, perché tutti gli altri hanno proposto i tagli delle province e votato contro i tagli delle province. E lo stesso governo Monti aveva fatto un'operazione di riduzione che è stata bloccata dalla presentazione della pregiudiziale di costituzionalità al Senato da parte del Partito della Libertà, del Popolo della Libertà. Poi, facendo un piano di dismissioni pubbliche realistiche, perché se il piano è quello che prevede 500 miliardi, beh, allora di cosa stiamo parlando? Siamo su scherzi a parte. Però lei dice non sono promesse, ma sono cose che si sentono da un po' di anni queste cose. Scusi, però qua non siamo all'anno zero, cioè qua stiamo facendole queste cose, almeno in questo anno abbiamo incominciato a fare. Se questo va avanti, si può alleggerire la pressione fiscale. Come? Prima di tutto bloccando il punto in più di IVA per luglio, che è un fatto molto negativo per i consumi. Secondo, salvaguardando e rafforzando le detrazioni e le deduzioni per la famiglia, che abbiamo anche, diciamo così, confermato, seppure in modo embrionale, sulla legge di stabilità. Sì. E poi dopo incominciare a parlare del cuneo fiscale. Partiamo dai giovani sotto i 30 anni che vengono assunti, perché questa è un'emergenza, ma poi dobbiamo arrivare al cuneo fiscale di per sé, perché il 50% di pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa è eccessivo. Secondo lei si può ancora bloccare, come ha detto, l'aumento dell'IVA programmato per luglio? C'è ancora margine? Secondo me c'è spazio, si deve bloccare, e naturalmente c'è spazio se continuiamo a lavorare in questa direzione. Se qualcuno pensa che dobbiamo tornare alle feste del passato, beh, allora altro che aumento del punto questo di IVA. Certo, è che molti italiani dicono, ma come, il governo che forse per necessità, ma comunque nell'ultimo anno e mezzo ha aumentato le tasse, perché credere che adesso le possa abbassare? Perché crederlo? Ma per una semplice ragione, perché l'aumento dell'IVA, che noi abbiamo scongiurato anche in questi mesi, e anche previsto da Tremonti, per cui non è vero che il governo ha solo aumentato le tasse. Il governo ha messo l'IMU perché dopo aver tolto l'ICI si era aperta una voragine nelle casse dello Stato e degli enti locali. Ma non è che abbiamo solo aumentato le tasse, abbiamo cercato, laddove era possibile, di alleggerire anche. Senta Casini, le chiedo questo: se lei votasse in Lombardia per le regionali, per chi voterebbe? Per Albertini. Perché io ritengo che il voto disgiunto, tutte le teorie sul voto disgiunto, siano un contributo straordinario all'indebolimento dell'area di Monti. E poiché di solito non seguo il ramo su cui sono seduto, ritengo che sia doveroso votare Albertini. Peraltro, secondo alcuni Albertini favorisce irrimediabilmente Maroni, secondo altri, cioè quelli della destra, Albertini favorisce irrimediabilmente Ambrosoli, per cui si dovrebbero mettere d'accordo tra di loro. In realtà per loro il voto utile è a loro stessi. E non mi meraviglio come, non, come tanti dell'area Monti non lo capiscono. A proposito di si è parlato oggi molto sui giornali di giustizia e orologeria, soprattutto della vicenda Finmeccanica. Lei ha un commento da fare. Maroni della Lega dice: nessuno tira in ballo la Lega, altrimenti quereliamo. Lei vede un nesso tra Finmeccanica e alcune forze politiche, in particolare la Lega? Grado di fare questa considerazione, queste sono considerazioni che devono fare i magistrati. Certamente io posso constatare che dopo l'ENI Finmeccanica è importante fare pulizia senza guardare in faccia nessuno, tenendo presente che questi sono i gioielli dell'industria nazionale italiana e sono tra le poche cose che ancora l'Italia può avere assieme all'Enel. L'ha sentita la battuta di Berlusconi sull'impiegata nei confronti della dipendente, i doppi sensi, viene, non viene? No, non l'ho sentita. Beh, è l'unico in Italia che non l'ha sentita. Sì, no, beh, sono l'unico in Italia che fa finta di non sentirla, perché sono convinto che bisogna parlare dei problemi degli italiani e non delle sciocchezze di Berlusconi. Ah, fa finta di non sentire, ha fatto sì. Finta di non sentire. Ha visto almeno il Festival di Sanremo? Sì, l'ho visto. Con le contestazioni, si parla addirittura di politica in campagna. Le posso dire una cosa? Sì, certo. Crozza è esilarante, divertente, mi piace moltissimo, mi sono collegato per ascoltarlo, mi sembra che ieri sia stato molto diverso dal Crozza normale. Il Crozza normale mi fa ridere, ieri sera francamente non mi è sembrato una delle sue performance più riuscite. Forse è rimasto un po' sorpreso da questa contestazione. Non lo so, un po' minore. Casini, le chiedo questo: nessuno avrebbe mai pensato di assistere all'annuncio delle dimissioni del Papa, no? Un evento di portata storica, segno che molti dicono possono succedere delle cose. Allora, non mi faccia fare questo accostamento che può apparire blasfemo, ma allora perché non si può pensare, e lo chiedo volutamente a lei, che tra 10 anni ci possano essere anche i matrimoni tra le coppie omosessuali in Italia? Francamente non vedo quali sia il collegamento. No, non è un collegamento, è per dire che le cose cambiano nel mondo. Le cose cambiano nel mondo, ma sa, la differenza tra tutto il resto per noi cattolici è che nella Chiesa e sul Papa opera lo Spirito Santo, per altre cose forse è impegnato. Perché lei è così, come formazione politica, l'UDC è così ostile a questa possibilità? Semplice ragione, perché noi riteniamo che ci sono tante persone dello stesso sesso che sono conviventi, che vivono con grande dignità, serenità e amore la loro situazione e non chiedono di essere parificate a un uomo e una donna che si sposano e che fanno figli, perché sanno bene che la natura ha un percorso diverso. Ora, a me sembra una sorta di violenza, quella dell'imposizione del matrimonio tra gay, la parificazione del matrimonio tra gay. Secondo me è una violenza che francamente ritengo che tantissime persone che vivono la loro omosessualità con serenità non chiedono. Ma perché una violenza addirittura usa questo termine? Perché la natura porta a far sì che il matrimonio, che è finalizzato alla procreazione, sia tra un uomo e una donna. Non è colpa mia se due uomini non possono avere un figlio, due donne difficilmente possono avere un figlio. Non è una cosa molto strana ritenere che dalla vicenda dell'umanità, dall'anno 1, dall'anno 0 ad oggi, la molla sia stata la procreazione, la famiglia, la natalità. Io penso, quando vedo ad esempio che due omosessuali che non possono avere figli pretendono di averlo in adozione, per me questa è una pretesa che si costa contro il diritto di un bambino ad avere una sfera di affettività paterna e materna. Per me, tra la pretesa di due omosessuali di avere un figlio e il diritto di un bambino a un'affettività naturale, io sto col diritto del più debole, non col del più forte. La ringrazio, buona giornata, in bocca al lupo ovviamente anche per lei, per la campagna elettorale. Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC. Noi ci fermiamo per 4 minuti e poi, anche con il vostro contributo, 800 24 0024, vogliamo parlare di di donne, donne. Due anni fa nacque il movimento Se non ora, quando? E poi, insomma, le donne sono tornate al centro dei riflettori con queste battute, questi ancora oggi sui giornali, le polemiche per la battuta di Silvio Berlusconi, alla quale ha risposto Bersani: vede le donne solo come bambole gonfiabili. Monti ha detto: chi applaude, chi ride di queste battute di Berlusconi al chiodo fisso del sesso. Insomma, ma noi gli italiani e le donne, la politica e le donne, vogliamo fare i conti con questa situazione. 24 mattino, 8:35 minuti, eccoci qua, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Due anni fa nacque il movimento Se non ora, quando? Gli italiani e le donne, noi italiani, noi maschi, quindi mi ci metto anch'io, e le donne, la politica e le donne, le battute in politica e le donne. Nei giorni ultimi è tornata alla ribalta questa vicenda per alcune cose che sono successe. Prima fra tutti, due giorni fa, la battuta che Silvio Berlusconi, il siparietto ricco e denso di doppi sensi che Berlusconi ha fatto con questa dipendente di un'azienda in Veneto. Non ho capito molto bene, lei viene? Lei viene? Sì, sì. Ma scusi, una volta sola? No, sono due gli impianti. Quante volte viene? 3, 4, 5, dipende dalle esigenze. Con che distanza temporale una visita? Dipende dal nostro tempo. E vabbè, insomma, questo è il siparietto. Poi Monti ieri ha detto: chi ride, sentite che c'erano molte persone che ridevano, chi ride di queste battute a sfondo sessuale al chiodo fisso del sesso. Bersani invece ha parlato di bambole gonfiabili. Solo la giornata tra ieri e ieri l'altro, Berlusconi, Maroni, Storace. Allora, Berlusconi che parla di donne più o meno nella sua testa come fossero bambole gonfiabili. Maroni che dice: voglio una moneta lombarda. Storace che nei suoi stand, le sue cose, mette la croce celtica. Ma noi dove andiamo? Vabbè, diciamo, la cosa interessante per il nostro argomento di oggi era la parte iniziale sulle bambole gonfiabili. E poi domenica a Ballarò, Neri Marco Re con la battuta da osteria nei confronti di Mara Carfagna. Floro, marzo pure, guarda, mossemo occhio per occhio. A me non mi chiami più. Perché? Che ti ho fatto? Chi ci hai stasera? Demetrio Albertini, Nanni Moretti, Rossella O'Hara. Beh, capirai, dai a ride, puntatona, ascolti alle stelle, eh? Fortuna che c'è la nostra Carfagna elettorale, qualcosa tira sempre su. Eccola qui, la battuta di Neri Marco Re. Voglio salutare Lidia Ravera, buongiorno. Buongiorno. Giornalista e scrittrice, e l'onorevole Lara Comi, europarlamentare del Popolo della Libertà, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Eccoci qua. Allora, Lidia Ravera, noi italiani, noi maschietti e le donne, e la politica e le donne, a due anni di Se non ora, quando, dalla fondazione, che considerazione le porta a fare? Che a due anni da più che dalla fondazione Se non ora quando, dalla manifestazione che ha portato in piazza 1 milione di donne di tutte le età, di tutti i tipi, in tutta Italia, stiamo per affrontare una consultazione elettorale in cui, se tutto va bene, ci sarà il 30% di donne nelle assemblee elettive di questo paese. Cioè, un parlamentare ogni 3 sarà una donna, ci sarà il 10% in più di donne di quante non ce ne fosse una precedente legislatura. È una buona notizia. Questo mi sembra comunque un gran risultato di questo risveglio delle donne. Quindi è un compleanno, come dire, felice per tutti, donne e uomini di buona volontà, che grazie al cielo sono tanti, perché arrivare alla democrazia paritaria, cioè al 50% di donne e 50% di uomini nella classe dirigente di questo paese, vuol dire arricchire l'Italia del pensiero femminile, dello sguardo femminile, della diversità femminile, vuol dire rendere questo paese più ricco, più felice, forse dare alla politica un'altra chance. Io sento che gli italiani credono molto nella possibilità di rinnovare la politica facendo irrompere nella politica l'altro genere, l'altra metà del cielo. Dopodiché le ha sentite anche lei le battute che, per carità, le abbiamo messe, se vuole, bipartisan. Ecco, c'è Berlusconi, ma c'è anche la battuta nei confronti di Mara Carfagna, ci sono la reazione di Bersani. Lei non sarà certamente tenera nei confronti di Berlusconi, non è la prima volta ma che fa battute. Ma io penso che forse bisogna smetterla di commentare le battute di Berlusconi. Ci sono degli uomini che pensano che le donne siano funzioni del desiderio maschile, che siano degli attrezzi o della merce di scambio da usare tra loro per darsi premi, per suggellare alleanze, per condizionarsi l'un l'altro. Ci sono degli uomini così, non sono molti per fortuna di tutti noi, però ci sono. Vogliamo passare la vita a commentare le loro sciocchezzuole? Pensiamo invece che questa irruzione delle donne nella politica aiuti la vita di tutte le donne, perché oggi la maternità è diventata un privilegio, ma vi rendete conto? C'è stato due giorni fa, al Piccolo Eliseo, una iniziativa di Se non ora quando, che ha incontrato i segretari dei partiti, sì. È venuto Vendola come segretario dei partiti, ma gli altri hanno mandato comunque delle pedine importanti delle loro squadre, è venuto Fassina, è venuto Granata e sono venute delle donne del Movimento 5 Stelle, insomma tutti hanno mandato il loro rappresentante a incontrarsi con le donne di Se non ora quando e per accoglierli è stato mandato un video, un'inchiesta video che è stata fatta a tappeto in tutta Italia con donne di tutte le età, di tutte le generazioni, scelte, trovate, filmate casualmente in tutta Italia, hanno risposto tutte alle stesse domande e c'è questo video fatto sotto la direzione di Francesca Comencini che sì. Racconta lo sguardo delle donne, i problemi delle donne, le donne che cosa chiedono alla politica? E la maggior parte delle donne chiede alla politica servizi per poter permettersi il lusso di diventare madre della maternità, continuando a essere persone. Ma adesso torniamo a questa cosa, a fare politica, a sì, lavorare, certo, sul lusso. Queste su quello che è diventato le cose importanti. Lusso. Sicuramente, onorevole Lara Comi, non so se vuole entrare nella polemica, nel dibattito, da quale lato vuole prenderlo, insomma, perché c'è l'aspetto positivo che dice Lidia Ravera, ci saranno il 30% di donne che verranno elette nel prossimo Parlamento, e però c'è anche questo aspetto per cui le devo chiedere, insomma, ma lei che effetto le fa? Non mi dica che anche lei Berlusconi è così quando l'ha sentito, davvero non ha provato nessun tipo di imbarazzo, nessun tipo di fastidio? Guardi, io sono assolutamente d'accordo con la dottoressa Ravera nel momento in cui dice basta commentare, ma centrodestra, centrosinistra trasversali, perché sono effettivamente delle battute e quindi abbiamo notato, anche sentivo nel sottofondo anche delle risate, quindi si è capito che era una battuta, era come tale. Anche la ragazza, appunto, quando è scesa i giornalisti l'hanno intervistata, ha detto che era una battuta, quindi su quello. Beh, oddio, per la verità su questo c'è un giallo, perché c'è oggi, un giallo oggi ha cambiato versione, non, in realtà. Però, non... Io onestamente accetto la prima versione quando uno scende dal palco e di conseguenza ha questa reazione, se poi la reazione poi viene meditata o strumentalizzata, questo a me poco importa, però guardi, i temi che la dottoressa Ravera ha posto mi sembrano decisamente più importanti che commentare una battuta, sia quella riferita alla Carfagna sia quella del Presidente, che può essere in entrambi i casi sicuramente poco elegante, questo io non ho nulla da dire, ma rimangono battute, ci sono persone che e anche molti politici che le fanno in privato anche peggio, quindi io su quello vorrei fare un passo avanti. Guardi, il problema delle donne in politica è dentro di me racchiudo due aspetti, il fatto di essere giovane, che è anche un altro problema che dobbiamo affrontare, il fatto di essere donna. A livello europeo la media è un po' più alta, siamo al 35% come rappresentanza e su questo dobbiamo tra virgolette ringraziare i paesi del nord che hanno questa maggior propensione a dare alle donne incarichi politici. Bisogna fare una differenza, secondo me, tra il sistema preferenze e il sistema delle nomine. Allora, nel sistema delle preferenze, nelle liste che abbiamo anche presentato per le regionali, l'obbligo del PDL era quello di avere un 50% donne e un 50% uomini. Sì. Pensi che in alcuni casi abbiamo raggiunto anche la maggior parte delle donne rispetto agli uomini in alcune province. Qual è il problema successivamente? Che alle donne quando viene chiesto di presentarsi con un sistema preferenze spesse volte fanno un passo indietro. Questa deriva anche dalla mia esperienza personale. Ma con perché? I ruoli di partito. Perché, come dice Lidia Ravera, poi non riescono a conciliare. Hanno paura e poi non riescono magari a conciliare il ruolo. Esatto, esattamente. Perché comunque una campagna elettorale a preferenze è molto, molto impegnativa. E quindi, da una parte, hanno paura di un risultato, dall'altra, preferiscono a volte aiutare l'uomo a raggiungere il risultato, il candidato, e quindi rimanere in seconda fila. È anche vero che unire l'aspetto professionale, quindi la vita lavorativa e nello stesso tempo politica, a quella privata è sicuramente difficile, ma nei passi avanti li stiamo facendo. Ad esempio, al Parlamento europeo abbiamo degli asili, abbiamo delle strutture che permettono di coniugare questo. Siamo indietro, secondo me, nell'aspetto lavorativo industriale. Però è interessante anche capire questo, e vorrei ripartire tra un attimo dopo l'informazione sul traffico. Il primo, se siete favorevoli alle quote rosa, e secondo, come avviene anche nella politica italiana la selezione delle donne che poi devono far parte della classe politica, perché su questo ovviamente non voglio stare a rivagare, ma negli ultimi anni se sono dette scritte di tutti i colori, e su questo anche due giorni fa, solo per dire, Giorgia Meloni, che è stata anche ai nostri microfoni, ha detto: mi sono vergognata di alcune cose del PDL, tra cui anche la scelta delle cosiddette starlette che sono state portate nelle pubbliche amministrazioni. Allora, 800 24 00 24, per intervenire in diretta. Vorrei andare a Gabriella da Cagliari, ci ha chiamato. Gabriella, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Ascolti, cerco di essere molto breve. Sì. Allora, innanzitutto non condivido quello che le due signore lì stanno dicendo, perché è veramente un'offesa contro le donne. In che senso? Che cosa? Quello che le scusanti per le battute, è un uomo che praticamente lui si gloria di queste sue battute, ma la deve finire quando si riveste una carica pubblica, e soprattutto in una circostanza come è avvenuto in un posto pubblico come quello che avete mandato in ora poco fa. Io mi sono sentita veramente molto offesa e risentita come donna. Allora bisogna fare una valutazione delle persone che mandiamo in Parlamento e che ci rappresentano. Guardi, perché Gabriella, stia con noi, ma credo che le sfumature siano diverse. Se Lara Comi forse dice non vuole commentare, Lidia Ravera credo che voglia dire andiamo oltre, ma non credo proprio che giustifichi, no. È l'ultima persona al mondo perché, che giustificherebbe Berlusconi. La mia paura è che diventi la sostituzione per altri e più importanti impegni che la politica si deve questo prendere. Sì, questo per sì, però Ravera, due giorni fa Giorgia Meloni è stata per esempio chiara, ecco, che ne pensa del fatto che ha detto mi sono vergognata, tra le altre cose anche per esempio del fatto che alcune starlette sono state portate. Che si è vergognata un po' a scoppio ritardato, perché è stata parecchio al governo con questa compagine. Dopodiché, benissimo, se adesso si vergogna, ben venga, nella vita si cambia, io non sono rigida in queste cose, non sono moralista. Due anni fa, il 13 febbraio, si sono riempite le piazze di donne che volevano difendere la loro dignità, che si sentivano complessivamente offese tutte, in modo assolutamente trasversale, donne dei più diversi schieramenti politici si sentivano offese da questa riduzione della donna a funzione del desiderio maschile, che è qualche cosa che ci diminuisce in maniera così radicale che è per noi, oltre che un'offesa, anche, come dire, il passaporto per l'esclusione, perché finché le donne saranno considerate divise, scusate se uso questo termine alla radio, ma viene usato continuamente, in scopabili e non scopabili, le donne non riusciranno mai a essere persone, a essere considerate persone, a stare nel mondo alla pari con gli uomini, e non con le quote, al 50%, perché parità vuol dire metà e metà, non vuol dire il 30, il 25, il 22, non sono quote. È la metà, nel senso che le donne e gli uomini, grazie al cielo, sono differenti e l'altro sguardo va rappresentato. Ovviamente questo diffuso disprezzo, che cosa sono queste battute? La signora ha ragione a offendersi, perché sono disprezzo due volte. Primo disprezzo per le donne, secondo disprezzo per le istituzioni, perché se avessi un ruolo istituzionale non sei al bar con i tuoi amici, e quindi queste cose non le devi dire, punto, perché sono diseducative. Allora, andiamo da Fabio da Lodi e poi vorrei anche da Lara Comi un commento su questo. Fabio da Lodi, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Dica. Scusi, io volevo fare una provocazione. Secondo me però anche le donne dovrebbero contribuire maggiormente alla causa, nel senso non dovrebbero prestarsi perché fino a quando ci sono donne che si prestano è ovvio che si trova terreno facile in questo senso. Cioè prestarsi anche alla, alla battuta, cioè lei dice che, sì, che, sì, che ecco, nello specifico quelli, questa donna sì, doveva perfetto, in qualche modo reagire? Sì, non dico reagire, però ecco, quantomeno non prestarsi in quel modo divertito. Perché comunque se ci sono, se c'è questo stereotipo della donna è perché ci sono donne che contribuiscono a mantenere questo stereotipo. Mm. Grazie Fabio. Ecco, Lara Comi, come vede, inevitabilmente si è tornata sulla vicenda, però è diventata una vicenda politica nel momento in cui anche Giorgia Meloni appunto ha detto questa cosa. Lidia Ravera dice se è vergognata a scoppio ritardato. Il dato di fatto è che il tema della selezione anche delle donne che sono state portate in politica è un tema che per gli ultimi due anni è, come dire, ha animato molto il dibattito. Lei che dice? Come replica le accuse? Che soprattutto nel Popolo della Libertà ci sarebbe stata questa scelta legata molto all'avvenenza, alla bellezza. Guardi, su Giorgia Meloni io sono intervenuta subito utilizzando più o meno le stesse parole della dottoressa Ravera nel momento in cui io ho detto che si vergogna a scopo ritardato e quando una si vergogna doveva anche ritirarsi e dimettersi da ministro e soprattutto da presidente dei giovani del PDL, perché ricordiamo che rappresentava anche i giovani. Nello stesso tempo vorrei anche dire che se la vergogna aumenta può tranquillamente rimediare, perché il PDL si è attualmente inserito all'interno di una coalizione e quindi Fratelli d'Italia è inserita in questa coalizione. Se non ci fosse in questa coalizione non sarebbe e non avrebbe la speranza di andare al Parlamento avendo quindi una percentuale attualmente dei sondaggi, quindi prendiamolo con le pinze sotto il 2%. Mi scuso, io ho sì, questa brutta caratteristica, sono molto diretta, quindi sì, non seguo le direttive di partito, ma invece ma quello sulle, che ne penso. Sulle considerazioni fatte anche la signora Gabriella da Cagliari, che invece si è detta sì, molto molto infastidita, molto offesa da questa, guardi, che non vuol declinare a semplice battuta così da far passare. Ma ci sono diverse opinioni su queste, io le ritengo battute, quindi permettetemi di sottovalutare e di tralasciare questo aspetto, perché si focalizza poi tutto su una battuta che può essere del presidente Berlusconi, che può essere di Pinco Pallino, ma quello che interessa è il ruolo che le donne devono avere e questa deve essere la centralità. Mi piacerebbe che si riempissero pagine di giornali su proposte per il futuro delle donne e non su una battuta. Io però amo anche fare un po' di autocritica e qui devo anche riferirmi ad alcuni atteggiamenti che mi hanno naturalmente deluso di Nicole Minetti, non mi nascondo su questo, nel senso che dipende a volte le donne come si presentano. Cioè lei, come, che... lei cosa ha sbagliato secondo lei? Ma secondo me la candidatura di Nicole è sbagliata, l'abbiamo riconosciuta, l'ha riconosciuta anche il presidente Berlusconi, quindi quando si sbaglia è simbolo di grande e anche segno di grande, penso, correttezza doverlo dichiarare. Indipendentemente da Nicole, io ragiono su un ambito generale. Io ho più o meno 30 anni, non ancora più o meno, e vedo anche tante mie coetanee che si presentano al mondo femminile e al mondo maschile in modo molto provocatorio. Quindi dobbiamo anche capire effettivamente che alcune donne giocano su questo loro potere, altre donne invece, mi permetta, si valutano più l'aspetto intellettuale e le loro capacità che la bellezza. Quindi diciamo una autocritica anche nei confronti di alcune sue coetanee che vede porsi in una maniera sbagliata. Fatemi sentire Sandra da Roma che ci ha chiamato. Sandra, buongiorno. Salve, buongiorno. Sì, io volevo rifarmi al discorso che ha detto prima l'esponente del PD. Lara Comi, sì. Sì, parlando del fatto che avevano l'obbligo del 50% donne e quindi 50-50, sì. Io sinceramente questa cosa poi non la ritrovo nelle liste, cioè come penso un po' tutti, quindi non ho mai visto una cosa. Ma ha detto anche che molte donne rinunciano poi nel momento in cui viene chiesto. Allora bisogna pure poi specificarla questa cosa. Beh, l'ha detto, cioè nel senso che poi gli viene chiesto e molti anche per problema, per conciliare con difficoltà le varie situazioni della vita rinunciano a questa cosa. Però dica Sandra. Però io volevo dire appunto che invece il Movimento 5 Stelle ha introdotto questa cosa del 50%, penalità se non veniva rispettato, penalità decadenza della lista. Quindi, cioè doveva essere fatto brutalmente, secondo lei, di forza, trovare, costringere delle donne anche non, finché no, non se ne trova il 50%. E un'altra cosa che invece le volevo dire, dire, è stata una cosa bellissima. Quando sono venute le varie TV straniere, sì, sì, soprattutto quelle del nord, tipo lei lo sa che sono venuti gli svedesi, danesi, sì, intervistati, Nord Europa, e ci hanno detto questa cosa, hanno detto che era bellissimo il fatto di vedere tante donne. Ah, vabbè. Quindi lei fa parte del movimento, capito? Va bene. Tante donne che non avevano visto invece nelle altre formazioni riunioni politiche. La ringrazio Sandra, devo chiudere qui e devo fermarmi. Ringraziamenti a Lidia Ravera e a Lara Comi per essere state con noi. Che dire, seguiteci su Twitter, Alino Milan sono io, oppure 24 Mattino, e l'appuntamento è rinnovato domani alle 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 Mattino.